action begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Ciao a tutti e a tutte, oggi vi volevo innanzitutto ragguagliare sul processo a carico di un compagno e di una compagna dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione, che cura questo programma Zaltins Magnetics, e poi a partire da questo ragguaglio, insomma, aggiornarvi su alcuni fatti, svolgere delle riflessioni. Allora, il processo ha visto l'udienza svolgersi il 13 maggio presso il Tribunale di Udine ed è stato rinviato per la discussione, quindi per la sua conclusione, o quantomeno per la conclusione del dibattimento, all'11 novembre 2021. E a nostra difesa sono state depositate delle documentazioni, in particolare lettere di detenuti del carcere di Udine, che qualificano i comportamenti, le omissioni della querelante, la dottoressa Bravo, a capo dell'area sanitaria del carcere di Udine, Ecco, ricordiamo il processo, perché magari qualcuno non ha seguito precedenti puntate. Il processo riguarda le imputazioni di apologia, istigazione a carico di un compagno per varie dichiarazioni, delle dichiarazioni in solidarietà agli anarchici di Trento. Che tuttora sono sottoposti a misure cautelari e sono sotto processo per la cosiddetta operazione Renata del 2019, che li ha visti prima in carcere e poi sottoposti a queste misure. Poi queste dichiarazioni furono svolte il 23 dell'11 del 2019 a una manifestazione a Udine e poi per delle dichiarazioni, sì, per un discorso, anche quello di prima era un discorso durante la manifestazione, per un discorso fuori dal carcere di Udine il 28 del 12 del 2019. Una manifestazione in solidarietà ai detenuti del carcere di Udine, in cui appunto denunciavamo anche quello che avviene nel carcere a livello di omissioni sanitarie, di cura sanitaria dei prigionieri, come i detenuti ci hanno più volte denunciato. Poi per un'intervista rilasciata sempre in quell'occasione, un'intervista denunciava la direzione dell'area sanitaria del carcere di Udine, quindi la dottoressa Angela Bravo denunciava per quello che non fa o che fa rispetto ai detenuti, ai prigionieri del carcere di Udine, fa nel senso rispetto a non fa nel senso di cure, di adeguate cure sanitarie, fa nel senso di cure superficiali. Da questo punto di vista, insomma, una condizione di abbandono sanitario, come ci è stato denunciato più volte dai detenuti stessi. Ecco, l'udienza per questo processo è stata rinviata all'11 novembre, insomma. È evidente che un processo che parte da reati d'opinione vuole colpire come dire, vuole colpire le mobilitazioni, quanto abbiamo svolto, sia in solidarietà a prigionieri rivoluzionari. Gli anarchici di Trento, Rovereto in questo caso, e poi quello che abbiamo svolto rispetto al carcere di Udine, cioè una presenza solidale all'esterno del carcere in modo da rompere l'isolamento a cui quelle mura sono funzionali, e poi una denuncia, ecco, di quanto avviene all'interno del carcere. Vogliono colpire questa attività e la colpiscono attraverso reati d'opinione, come la diffamazione, in questo caso verso la dottoressa Angelo Bravo, e l'apologia di reato sì, dichiarazioni, ad esempio quelle durante la manifestazione 23 dell'11 del 2019, manifestazione in occasione della giornata contro la violenza di genere, la violenza sulle donne, dichiarazioni contro ad esempio la Lega o il regime di Erdogan, a sostegno delle azioni dirette che colpiscono i razzisti, coloro che fanno apologia della violenza di genere, dell'oppressione di genere, e ovviamente gli interessi che stanno dietro a queste forze reazionarie. Ecco, vi parlavo prima del processo che stanno conducendo a Udine contro un compagno e una compagna dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione, e per le imputazioni di diffamazione verso la dottoressa Angela Bravo, responsabile dell'area sanitaria, capo dell'area sanitaria nel carcere di Udine, forse sarebbe giusto definirla dell'area mala sanitaria. E poi apologia di vari reati, no? Prima vi citavo l'esempio, sì, uno di questi, e si diceva dell'apologia nei confronti dell'istituto bancario Unicredit e delle sedi della Lega Nord, istituto bancario Unicredit, perché per i suoi perché una delle accuse era quella una delle imputazioni riguardano delle dichiarazioni rispetto ai compagni e alle compagne coinvolte nell'operazione Renata, accusati di un atto di sabotaggio contro una filiale di Unicredit che ha pesanti interessi in Turchia, quindi si lega al regime di Erdogan, regime che pratica l'oppressione di genere. Era una manifestazione a Udine, durante una manifestazione a Udine, proprio in relazione alla giornata internazionale contro la violenza alle donne, era il 23 novembre del 2019, e poi apologia rispetto alla Lega, alle azioni contro la Lega, contro le sedi della Lega, di cui sono accusati anche gli anarchici di Trento coinvolti nell'operazione Renata. Quindi, insomma, una doppia apologia in merito a questi fatti. Ecco, siccome è stato detto che colpire chi pratica, porta avanti, chi fa apologia dell'oppressione di genere, del razzismo, dell'esclusione, eccetera, è giusto, vi sono state queste, si è imbastito questo processo. Ecco. Ma tra le accuse, però, le imputazioni in questo processo che più possono destare così scalpore, ma appaiono anche per certi versi ridicole, se non fossero alla base di un procedimento penale, è quella addirittura dell'accusa dell'apologia. Sì, dell'apologia di addirittura di omicidio. Perché questo? E durante la manifestazione del 28 del 12 del 2019 fuori dal carcere di Udine, di cui vi dicevo precedentemente, vi è stato chi un compagno parlava, ha fatto un intervento rivolto ai detenuti, ai pochi e alle poche partecipanti al presidio, ma insomma c'eravamo per dare solidarietà ai detenuti, ai prigionieri per la loro condizione. Ha fatto un po' una storia del carcere di Udine, che ha una storia insomma nei decenni, non è sicuramente un carcere nuovo, è un carcere in cui i nazisti rinchiudevano i prigionieri politici. Si è ricordato che nel febbraio del 45 i garibaldini lo assaltarono, i Diavoli Rossi, guidati da Romano il Mancino, e liberarono alcuni prigionieri comuni e soprattutto prigionieri politici, membri della resistenza che vi erano incarcerati. Poi si è parlato dell'episodio del 6 giugno del 78, e quando il capo della polizia penitenziaria del carcere di Udine, il maresciallo Santoro, venne giustiziato, colpito all'esterno del carcere, colpito a morte da parte dei proletari armati per il comunismo. Piaccia o non piaccia, fa parte della storia di quel carcere. E il discorso era relativo al fatto che i cicli di lotta di classe, come fu la resistenza antifascista, antinazista, e poi come furono gli anni 70, hanno toccato il carcere, lo toccano inevitabilmente, perché il carcere è una struttura di repressione sociale, politica, sociale nel senso di contenimento delle contraddizioni di una società divisa in classi, e politica nel senso di repressione verso i nemici dell'ordinamento sociale vigente, insomma. E si sono citati questi episodi, insomma, ecco, la semplice citazione di questi episodi è finita poi in un'imputazione. E in un'imputazione addirittura si parla di apologia di omicidio, come se chi avesse parlato all'epoca avrebbe voluto convincere qualcuno a fare chissà che, ecco. Lo schema che sta dietro è uno schema chiaramente inquisitorio, volto a colpire, insomma, una mobilitazione di solidarietà reale verso i detenuti del carcere di Udine. Ecco, dunque, vi parlavo negli interventi poc'anzi del processo a carico di un compagno, di una compagna dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, che cura questo programma, Zaldins Magnetics, processo che è rinviato all'11 novembre, processo che riguarda varie dichiarazioni, discorsi, costruito sui reati di diffamazione e apologia. Vi citavo uno fra gli episodi, insomma, imputati, è quello di aver semplicemente ricordato l'azione che i proletari armati per il comunismo, il gruppo proletari armati per il comunismo, fece contro il maresciallo Santoro a Udine il 6 giugno del 1978. Ecco, all'epoca Santoro venne giustiziato perché era un picchiatore, era uno che dirigeva la polizia, era il comandante della polizia penitenziaria di Udine, All'epoca verso il calcio, nel carcere di Udine vi erano stati rinchiusi anche, era un calcio che stava assumendo insomma la connotazione di carcere speciale, anche con politici o detenuti comunque ribelli, e Santoro era uno piuttosto attivo nella persecuzione, nelle pressioni verso i detenuti, se non nelle vere e proprie violenze, insomma. Vi erano stati poi numerosi episodi interni anche di maltrattamenti e di abusi e di, oltre che di corruzione, di nefandezze, insomma, commesse dai secondini che erano del carcere di Udine, che erano arrivate anche alla stampa, anche all'interesse della giustizia borghese, e poi insomma sono arrivate anche all'interesse della giustizia proletaria in qualche maniera. E questo caso il processo, insomma, che abbiamo è un processo anche che con questa accusa di apologia, addirittura di omicidio rispetto a questo fatto, si ricollega al caso molto più grosso, molto più mediatizzato, ovviamente, che è quello di Battisti, di Cesare Battisti, no? Cesare Battisti, dopo una latitanza di 37 anni, lo ricordiamo, nel 2019 è stato consegnato dalle autorità boliviane al nostro paese. All'epoca c'era il governo cosiddetto populista, due ministri lo attendevano, uno vestito da polizia penitenziaria, l'altro da carabinieri, insomma due pagliacci, Salvini e Bonafede. E allora Battisti, che è stato condannato anche per l'azione contro Santoro, è in carcere, insomma, per scontare l'ergastolo, insomma, per questo fatto e altri fatti imputati ai proletari armati per il comunismo. Ora, l'attualità sta nel fatto che in questo momento Cesare Battisti sta conducendo uno sciopero della fame. Sciopero della fame perché gli venga revocato l'alta sorveglianza, l'alta sicurezza, il regime di alta sicurezza. Il regime di alta sicurezza, un regime differenziato, al momento è rinchiuso nella casa di reclusione di Rossano, in Calabria. È all'interno della sezione per cosiddetti terroristi islamici. Praticamente da quando è stato catturato, è stato consegnato, insomma, Battisti è stato sempre sottoposto a un isolamento di fatto, prima nel carcere di Oristano, per lo più in prigioni dove vi sono queste sezioni differenziate per cosiddetti terroristi islamici. E al momento è in sciopero della fame dal 2 giugno, ha perso 10 kg, vi è stato anche un episodio di svenimento, di malore. Ecco, questo per ricordare come sia in riferimento al nostro processo, sia in riferimento alla vicenda di Battisti, che se è una vicenda, come dire, emblematica di un accanimento verso uno che peraltro politicamente dissociato rispetto alla lotta rivoluzionaria di quegli anni, ecco, un accanimento rispetto agli anni 70, ai cosiddetti anni di piombo, come li chiamano i mass media, un accanimento pesante, insomma, nel senso che parlare di semplicemente ricordare quegli anni, e poi un accanimento anche verso i protagonisti in genere, cioè non verso solo, il che per certi versi è naturale, verso i compagni che continuano a rivendicare la militanza rivoluzionaria, verso i rivoluzionari prigionieri che sono ancora nelle galere italiane, ma verso anche personaggi come Battisti, ecco, che hanno chiuso con quell'epoca, con quelle idee, con quelle pratiche, o comunque le ritengono fuori dal presente. Un accanimento pesante, omicida per certi versi, terroristico, perché la vicenda di Battisti lo dimostra, ecco, un terrorismo di Stato verso una persona evidentemente eletta a simbolo di un'epoca. Ecco, si diceva precedentemente del processo a carico di un compagno e di una compagna dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione, processo che si terrà l'11 novembre, è stato rinviato l'11 novembre a Udine, presso il Tribunale di Udine, per varie dichiarazioni nell'ambito di mobilitazioni e di manifestazioni, cioè per i reati di apologia e di diffamazione. Una di queste dichiarazioni riguarda l'episodio del 6 giugno del 1978, quando il maresciallo Santoro, capo della Guardia Penitenziaria di Udine, persecutore, picchiatore, torturatore, venne giustiziato dai proletari armati per il comunismo fuori dal carcere di Udine. Episodio che sì, per cui sta scontando l'ergastolo Cesare Battisti. E si ricordava l'attualità, insomma, della vicenda Battisti, per chi in questo momento Cesare Battisti è in sciopero della fame, per chi volesse tributarli, insomma, inviargli dei messaggi di solidarietà. L'indirizzo della casa di reclusione dove è rinchiuso è casa di reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87068. Ripeto, casa di reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87068. E Battisti chiede la fine del regime di alta sicurezza in cui è rinchiuso. I'm not afraid. diceva prima del fatto che insomma, questo processo rivela, oltre al voler colpire le attività dell'Assemblea Permanente contro il calcio della repressione, rivela il fatto che non si può parlare in sostanza degli anni 70. Ecco. Lo rivela anche perché insomma, la vicenda di Battisti è emblematica, ma poi sono emblematici. È emblematica anche l'operazione Ombre Rosse, quella dell'aprile scorso. Insomma, in tutti e due questi casi si vogliono colpire delle persone, si colpiscono delle persone che non hanno più nessun ruolo nel senso rivoluzionario, nel senso di lotta rivoluzionaria come è per un tempo, ma si vuole dare evidentemente dei moniti per il presente. Ma poi sempre riguardo noi, riguardo l'Assemblea Permanente contro il calcio e la repressione, va notato anche che rispetto proprio a dichiarazioni svolte in questa frequente data su Zaltis Magnetics in trasmissione del febbraio di quest'anno, si è imbastito una nuova indagine. Abbiamo saputo che siamo due di noi sono nuovamente indagati, e anche in quel caso pare che riguardano delle puntate, degli interventi svolti su l'episodio anch'esso insomma datato del 28 febbraio 1979, quando a Torino vennero ammazzati Matteo Cageci e Barbara Azzaroni, due militanti di prima linea uccisi dalla polizia, cui corpi dopo vennero esposti. Insomma, lo Stato borghese dimostrò la sua ferocia verso questi militanti comunisti, come in altre occasioni, insomma, come via Fracchia, eccetera. Ecco, all'epoca c'era una dimostrazione di ferocia, di barbarie. Oggi c'è un accanimento, nel nostro caso, con rispetto a sì, dichiarazioni, con l'utilizzo di reati d'opinione. E poi abbiamo queste inchieste, insomma, che non riguardano il movimento rivoluzionario oggi, ma riguardano fatti di decenni fa, che evidentemente però servono politicamente queste operazioni. Sì, servono politicamente. Prima vi parlavo di Battisti, perché evidentemente quanto ad esempio afferma la difesa di Battisti, in un certo senso lo ha affermato anche lui, nel senso che quelle azioni, quella storia si colloca in un'epoca passata, e forse non è così vero come ci dicono. Ecco, vi volevo chiudere questo pensiero, insomma. E pochi giorni fa, ad esempio, a Novara è stato ammazzato un operaio, un sindacalista che lottava per la dignità del lavoro, per il contratto, per rivendicazioni sindacali. A marzo dello scorso anno, 2020, vi fu la strage nelle carceri, soprattutto nel carcere di Modena. È notizia di pochi giorni fa che vi è stata l'archiviazione per quelle morti. Abbiamo una quotidiana strage sui posti di lavoro, abbiamo una polarizzazione della ricchezza sempre più nelle mani di pochi, abbiamo un capitalismo che dimostra nella crisi che lo attraversa economica, tutta la sua barbarie, con la guerra imperialista, con la devastazione ambientale, con l'esodo forzato di migliaia di dannati della terra che spesso muoiono nelle frontiere marittime, nelle frontiere terrestri, eccetera. Ecco, evidentemente lo Stato, la classe dominante sanno che quell'epoca, che quelle contraddizioni sono presenti, sono altro che presenti, sono aggravate nel nostro presente, sono sempre più forti. E quindi la demonizzazione mediatica, giudiziaria, politica, ideologica degli anni 70 serve a lanciare un monito: non ci provate più, vi dovete vivere e trovare da vivere in questa barbarie, non provate più ad assaltare il cielo, proletari e proletarie, vivete di qualche briciola sempre più risicata che vi concediamo e non provateci più. Ecco, penso che questa sia la lettura ideologica che sta dietro alle vicende di cui vi parlavo oggi, alle vicende giudiziarie nostre, alle vicende carcerarie di Battisti, pur nella differenza enorme, insomma, delle vicende, ecco, delle due specifiche vicende. Con questo vi saluto, insomma, nel senso, auspicando invece che questa volontà dello Stato borghese sia negata, sia contraddetta dalla forza di un nuovo assalto al cielo di cui abbiamo tutti e tutte bisogno. Saluto a tutte e a tutti anche da parte mia. E dunque, un paio di settimane fa la Coordinamenta Transfemminista di Udine ha organizzato in piazza Libertà, a Udine appunto, un'iniziativa con le compagne della Obiezione Respinta di Pisa. E questa iniziativa, insomma, ha dato l'occasione di parlare della loro esperienza. Il progetto Obiezione Respinta praticamente si occupa di segnalare in maniera puntigliosa tutti i luoghi in cui viene esercitata l'obiezione di coscienza contro il diritto di aborto in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie d'Italia. Durante questo incontro si è parlato di questo progetto e anche più in generale di un'esperienza purtroppo conclusa, e cioè dell'esperienza del consultorio autogestito e non solo della limonaia Zona Rosa di Pisa. Appunto, questa limonaia è una struttura di proprietà della provincia di Pisa, era stata occupata dalle compagne transfemministe nell'aprile 2017, praticamente poi è stata subito sgomberata, poi loro l'hanno rioccupata e l'esperienza è durata 4 anni, fino appunto a uno sgombero militare avvenuto nel gennaio del 2021, quindi in piena situazione di lockdown. È stato interessante appunto parlare con le compagne di questa esperienza di consultorio autogestito, che è stata un'esperienza insomma importante, poi in luogo occupato, quindi ancora più importante, ed è stato interessante anche perché ci ha permesso così di riandare con la memoria o comunque di ricordare esperienze che erano molto più diffuse negli anni 70 di esperienze di consultori autogestiti e quindi di strutture dove praticare i propri diritti di autodeterminazione sessuale, riproduttiva, eccetera, fuori da ogni logica istituzionale, quindi senza lacci statali di nessun tipo. In questa carrellata così che si è fatta un po' in piazza, insomma, in questa discussione che si è fatta un po' in piazza, è venuto fuori appunto l'esperienza molto importante di questi consultori autogestiti AED femminismo, che esiste, quello di Bergamo in realtà esiste ancora, comunque che sono nati, diciamo, prima a Bergamo nel 1970 e poi a Roma nel 75. In verità Bergamo esiste ancora una struttura, ma vabbè, magari ne parleremo in un'altra situazione, approfondiremo questo aspetto in un'altra situazione. Di che cosa si tratta? L'AED, che sarebbe Associazione Educazione Demografica, questa sarebbe la sigla, nasce a Bergamo, come dicevo prima, nel 1970 come associazione. In realtà, diciamo, è un'associazione informale, si tratta di un gruppo di pressione laico, apartitico, senza fini di lucro, così si definiscono le compagne, per promuovere tutte le iniziative culturali, politiche, sanitarie, eccetera, eccetera, che garantiscono in termini di libertà individuale e progresso civile la trattazione del tema demografico. Qualche anno dopo, nel 73, l'AED si costituisce come associazione, ma questa associazione ha una funzione puramente organizzativa, quindi non rifiuta ogni finanziamento pubblico, rifiuta qualunque rapporto con lo Stato e si autofinanzia solo con i liberi contributi di iscritte e simpatizzanti. Il nome Associazione Educazione Demografica in realtà non rende l'idea delle finalità e nemmeno delle metodologie del gruppo, che rifiuta anche il concetto di educazione e più specificamente rifiuta il concetto di educazione sessuale, preferendogli quello di informazione sessuale. Vediamo che cosa ci dicono nel manuale femminista che è stato pubblicato nel 1977 a questo proposito. L'educazione sessuale trasmette le norme su come, dove, quando e perché realizzare un'attività sessuale educata e ovviamente le norme si imparano per attenervisi e sono trasmesse come scientifiche dagli specialisti del comportamento al servizio della classe al potere. Progetti di legge per l'educazione sessuale nelle scuole sono già impostati, l'educazione sessuale degli adulti nei consultori di Stato è già avviata. L'adulto si costruisce attraverso il condizionamento sin da bambino, solo che l'appannaggio di questo condizionamento una volta era dei preti, oggi è dello Stato e qui nasce lo scontro tra le forze clericali improntate alla repressione sessuale e le forze laiche psicoconsumistiche ispirate alla logica della sessualità come mito oppure come dovere sociale. Al contrario, l'informazione sessuale dà nozioni di anatomia e fisiologia, senza la volontà di trasmettere valori, modi, tempi e motivazioni comportamentali e lasciando alle esigenze del singolo la scelta del comportamento sessuale senza creare falsi problemi o conflitti circa la propria presunta normalità o anormalità sessuale. Insomma, ci dicevano nel 77 le compagne di AED Femminismo, l'informazione sessuale svolge un'azione di base e non di vertice. Ma in che cosa consistono i consultori dell'AED? Che cosa sono? Sono consultori informativi, politico-culturali, con collaboratori esterni, medici e legali, appunto collaboratori esterni alla struttura, che quindi prestano, diciamo, la loro opera all'interno della struttura, ma non ne fanno parte direttamente. I consultori sono volutamente diversi da una struttura medica. E questo perché, e andiamo a leggere cosa ci dicevano le compagne, strutturare il consultorio in questo modo significa permettere a qualsiasi donna, casalinga, operaia, laureata e non, di agire all'interno del consultorio senza il confronto diretto e costante con personaggi medici, con personaggi come i medici, gli psicologi, che per via della laurea specifica nel settore tendono a rendere sempre esclusivamente scientifico e quindi loro, quando invece è politico e quindi nostro, di noi donne. Quindi i consultori autogestiti dell'AED sono luoghi autogestiti di donne e diretti, cioè organizzati da donne, in cui ci si incontra, si discute, si fa ricerca sulle questioni giuridiche e mediche che riguardano le donne. Si denunciano anche le sperimentazioni e gli abusi delle aziende farmaceutiche, si affrontano concretamente e insieme tutte le problematiche relative all'aborto. Si mettono in atto una serie di pratiche di conoscenza del proprio corpo, self-help facciamo da noi. E poi si utilizza anche, ad esempio, la medicina, si utilizzano la medicina e i saperi alternativi. AED, i consultori autogestiti, si caratterizzano per essere non dei servizi, come invece poi saranno i consultori, diciamo, istituzionali, ma come luoghi di natura politica. proprio per questa ragione estendono il loro interesse e intervento oltre le problematiche femminili e femministe. Questo aspetto di intersezionalità, potremmo chiamarla con un termine diciamo contemporaneo, tutto questo è stato messo in pratica anche nell'esperienza della Limonaia di Pisa, in quanto anche all'interno di questo spazio diciamo nato come consultorio autogestito si sono poi create altre cose, ad esempio iniziative rivolte alle persone migranti, tipo le scuole di italiano, altre iniziative che comunque si sono rivolte alle oppresse e agli oppressi, e quindi hanno individuato, diciamo, in altri soggetti delle similitudini o comunque delle affinità, ad esempio basate sull'oppressione di classe. Tornando ai consultori AED Femminismo, questi consultori prenderanno una posizione molto critica sia sulla legge 405 del 1975 che istituiva i consultori pubblici, criticando il ruolo di psicologi, psichiatri, sessuologi e i vari esperti del comportamento definiti manipolatori dei problemi umani. E partendo da questa critica, diciamo, all'istituzione dei consultori pubblici e delle figure medico-psicologiche al suo interno, l'AED Femminismo arriverà anche a proporre l'abolizione delle cattedre di psichiatria e psicologia e la soppressione dei manicomi. Si arriverà poi a criticare il contenuto della legge 194 del 78, cioè la legge che regolamenta l'aborto di Stato. Vediamo che cosa ci dicono, che cosa dicono le compagne di AED. I consultori dello Stato sono strutture di condizionamento del comportamento, strutture di controllo qualitativo e quantitativo della popolazione, strutture di consenso politico. Le donne devono smascherare il ruolo dei consultori e dei poliziotti in camice bianco, psicologi, sessuologi, psichiatri, psicanalisti e assistenti sociali. Noi vogliamo l'aborto libero, depenalizzato e subito. L'aborto legale, ossia su autorizzazione dello Stato, lo lasciamo agli schiavi. Chiarito il concetto di libertà, non inquiniamo questa rivendicazione con motivazioni terapeutiche, eugenetiche, economiche e paternalistiche, in sintesi demagogiche e assistenziali. Ci devono riconoscere l'aborto come diritto all'autodeterminazione. Alla fine degli anni 70 comunque e l'inizio degli anni 80 anche in Friuli ci sono state prese di posizione in favore dei consultori autogestiti e della depenalizzazione dell'aborto e non della sua legalizzazione, ad esempio da parte del collettivo femminista della Bassa Friulana. Proprio questo collettivo aveva pubblicato su un periodico dell'allora Democrazia Proletaria, che si chiamava Macchie, un articolo che appunto parlava di questi argomenti. Vediamo un po', ve ne leggo alcuni pezzi perché è interessante. La legge 405 del 75, istitutiva dei consultori familiari pubblici, veniva promulgata in un momento in cui era necessario un rilancio della strategia del consenso, soprattutto attraverso la partecipazione delle classi subalterne ai progetti politici della classe dirigente, metodo poi risultato ideale per minare la presa di coscienza e la lotta di liberazione della donna, che in quegli anni si faceva sentire più forte che mai. Dopo la 405 venivano infatti la legge sull'aborto, che conviveva con la legge sull'ordine pubblico, con la nuova legge sulla droga e con le nuove normative sul lavoro dipendente. Lo scopo era chiaro: recuperare le grandi masse, di cui le donne rappresentavano una succulenta fetta, e reprimere le avanguardie. I risultati sono evidenti, le soluzioni delle tensioni individuali, peraltro generate dal sistema, demandate allo specialista, vengono da questi convogliate e risolte dentro il sistema senza scalfirlo minimamente, impedendo le ribellioni e le istanze che trovavano poco prima sbocco nel femminismo e nelle strutture alternative. Ecco, quindi dopo questa analisi, il collettivo femminista della Bassa Friulana continuava appunto dando una descrizione delle strutture costituite dai consultori alternativi autogestiti. E ci dicono: queste strutture si configurano come strumenti di informazione, perché le donne devono essere pronte a stroncare le speculazioni e perché la libertà di scelta esiste se c'è una preventiva conoscenza delle cose. Gestiti dalle donne, perché l'obiettivo è la difesa delle donne e della loro salute. Solo partendo dalla discussione sui propri bisogni, le donne possono individuare soluzioni alternative e non prefabbricate, per bisogni reali e non indotti. Riferimento politico-culturale, punto di informazione per tutte, in cui tutte possono dare il loro apporto ed essere a loro volta centro di informazione per altre. Studio di una soluzione concreta, perché la teoria non va mai separata dalla pratica. E perché le soluzioni devono essere il più autogestite possibile, soprattutto per quanto riguarda aborto, sessualità, contraccezione, eccetera. L'aspetto clinico verrebbe in questo caso risolto indirizzando a medici, ostetriche e laboratori d'analisi che, più sensibili di altri, offrano le loro prestazioni a tariffe minime, autofinanziati e quindi autonomi da ogni condizionamento ed interesse di potere. Le donne che vi partecipano vi daranno il loro contributo. Non bisogna, a questo proposito, confondere il lavoro politico con il gratuito, né tantomeno confondere il gratuito con la libertà. Facendo un altro salto, ritornando a AED femminismo, un altro, diciamo, terreno di scontro di questi collettivi era quello in generale con il mondo medico e con la scienza, sì, con la scienza prodotta dalla società capitalistica. E anche che prodotta e producente da un certo punto di vista la società capitalistica. A questo proposito l'AED si scontrerà con diverse case farmaceutiche e problematizzerà la diffusione di alcuni sistemi anticoncezionali che poi risulteranno dannosi per la salute, come una crema spermicida, vabbè, di cui adesso non ricordo il nome. Comunque l'AED faceva battaglie anche di questo tipo. E in generale, e questa è un'eredità importante, anche questa è un'eredità importante che va tenuta in considerazione, si batteva contro la medicalizzazione del corpo della donna, vera e propria forma di spossessamento e sfruttamento. In questo senso, tutelavamo appunto in piazza durante l'incontro di cui vi accennavo prima, l'incontro con le compagne della limonaia Zona Rosa di Pisa, e di obiezione respinta, e dicevamo come in realtà i consultori istituzionali familiari, tra l'altro chiamati appunto consultori familiari, siano ora diventati in realtà un servizio a impronta prevalentemente medica. Si discuteva anche degli screening, no? Di questa linea così preventiva che va per la maggiore, che è quella degli screening, che invece di facilitare, diciamo, l'autoconoscenza e l'autocoscienza del proprio corpo e della propria salute, tende a spostare questa conoscenza e questa coscienza all'esterno, perché ci sono comunque queste campagne che poi risultano essere campagne che sono utili prevalentemente allo Stato per avere delle statistiche di argomento medico. Appunto, viene a mancare l'autodeterminazione, l'autoconoscenza e la coscienza del proprio corpo e anche delle fasi critiche della salute, e viene demandato tutto ciò a questi programmi che coinvolgono in maniera massiva la popolazione femminile, che peraltro non sono nemmeno così efficaci da un punto di vista preventivo. Thank you. siamo sempre su Zervings Magnetics, Radio Onde Furlane, e stasera vi ho, così, ho fatto un po' di approfondimento sulle questioni legate a consultori familiari, consultori autogestiti, aborto legale, aborto depenalizzato, libero aborto, e esperienze di autogestione della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti sessuali e riproduttivi, e l'ho fatto a partire da una iniziativa che la coordinamenta transfemminista di Udine ha organizzato un paio di settimane fa, appunto a Udine, invitando le compagne della Limonaia Zona Rosa di Pisa e del progetto Obiezione Respinta. Sicuramente ci sarà un'altra, ci saranno ulteriori approfondimenti anche su altri aspetti collegati a questi argomenti. Intanto un saluto e alla prossima, sperando di essere di nuovo in diretta. Ciao. One day my princess came, her body's an house in flame. Making love with her is an LSD trip. I look at the wind, I can see how deep is our dream. One day my princess came, was a winter day, and it will never be the same again. I put my head on her bed and we fell in each other's skin, like the sun snowing in the rain. Happiness in my heart. Thank you. La notte, dopo la seconda e ultima udienza preliminare per il processo Scintilla, che si è tenuta a Torino lo scorso 16 giugno, Natasha è stata nuovamente svegliata in piena notte nella sua cella del carcere di Vigevano e trasferita in un altro carcere. Lo ha scoperto la mattina del 17 giugno la compagna, che si è presentata davanti alla guardiola del carcere di Vigevano per fare il colloquio e a cui invece è stato detto che Natasha non c'era perché era stata trasferita la notte prima. Come sempre, a Natasha non è stato consentito di avvertire nessuno, neppure il suo avvocato. Si presumeva potesse essere stata ritrasferita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che però non ha dato notizie a riguardo, neppure al suo avvocato, fino a questa mattina, quando gli hanno confermato che Natasha si trova effettivamente lì. A questo punto, sul tema colloqui, vale forse la pena spendere due parole in più. Dopo il trasferimento di Natasha dal carcere di Piacenza al carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenuto verso metà marzo, l'autorizzazione permanente ai colloqui tra Nat e una compagna rilasciata dal GIP è diventata oggetto di interpretazioni arbitrarie da parte della dirigenza carceraria, la quale ha autorizzato una sola ora di colloquio al mese, non più quattro quindi. Dopo più di due mesi dalla richiesta, è giusto appena prima di trasferirla temporaneamente a Vigevano per consentirle di presenziare alle udienze preliminari del processo Scintilla del 4 e 16 giugno. Nel carcere di Vigevano la direzione ha seguito lo stesso copione. Nat è entrata in sezione AS3 tra il 12 e il 13 giugno, dopo il consueto isolamento sanitario di due settimane. Il carcere ha autorizzato una sola ora di colloquio al mese e soprattutto ha tassativamente deciso di fissare il colloquio per giovedì 17 giugno. Alla richiesta di poterlo anticipare a martedì 15, i colloqui attualmente sono di martedì e di giovedì, quindi era possibile farlo, visto che si trattava di un trasferimento temporaneo fino al 16 giugno, seppur si è tentato di renderlo permanente per riavvicinamento territoriale, il carcere non ha voluto sentire ragioni. La compagna ha chiamato il carcere per avere conferma del colloquio fino al giorno prima. Non solo le è stato nuovamente confermato, ma le è stato anche detto che in caso di improvviso trasferimento, il carcere avrebbe avvertito telefonicamente per annullare il colloquio. Affermazione a cui chiaramente nessuno aveva dato né valore né peso, visti i soggetti in questione, ma tant'è. Postilla. Ad ogni trasferimento, per la precisione 3 in 3 mesi, i soldi di Natasha, le sono stati trattenuti mediamente per una decina di giorni dal carcere di provenienza e l'unico modo per aggirare questo problema è stato inviare un nuovo bonifico ad ogni carcere di arrivo, sebbene lei avesse già i suoi soldi sul conto, ma bloccati nel carcere di partenza. Non ci sorprende la natura infame e vessatoria dell'apparato repressivo e delle strutture carcerarie. Ci teniamo però a ribadire che Natasha non è sola e che le siamo al fianco e che non sarà qualche centinaio di chilometri o qualche guardia graduata con una vita di merda a farci cambiare idea. Con Natasha e con tutte le compagne e i compagni imprigionati che resistono e lottano a testa alta. Testo di Natasha in sciopero della fame. Santa Maria Capua Vetere, 17 giugno 2021. E meno male che in campagna se magna buono. Ciao ragazzi, due righe di aggiornamento al volo, senza perdere un minuto, la notte successiva all'ultima udienza preliminare di Scintilla, mi hanno rimessa su un aereo per rispedirmi in questo postaccio di merda, Santa Maria Capua Vetere. Sapevo che la trasferta al nord era solo un appoggio temporaneo, ma pensavo sinceramente che avrei avuto un po' di tempo in più. Così come ingenuamente, speravo che avrebbero almeno letto le varie istanze presentate da me e dall'avvocato per la riassegnazione. Dal giorno in cui mi hanno trasferita qui, 3 mesi fa, non ho più potuto comunicare decentemente con il mio avvocato. I colloqui sono stati riaperti, quindi niente videochiamate né chiamate su richiesta del legale. Le telefonate sono una mensile di 10 minuti anche per gli imputati e anche per chi sta a 1000 chilometri dalla sede del processo o da casa. Se è in vena, il direttore può concederne una seconda straordinaria nel corso dello stesso mese, ma ovviamente, in quanto concessione, non ha nessun obbligo di farlo. In ogni caso, è fuori discussione superare le 2 mensili. 20 minuti al mese, in una stanzetta soffocante e nell'orario e giorno prestabiliti, augurandosi che il tuo difensore quel giorno sia in studio. 20 minuti al mese, da 1 mese e mezzo, prima che iniziasse il processo, sino ad oggi, che il dibattimento è sostanzialmente giunto al termine. Ci restano 2 udienze, prima della requisitoria, 2 udienze in cui si sarebbe dovuto ragionare di dichiarazioni spontanee, esame e controesame, ma a quanto pare mi toccherà ragionare in solitaria. A pensar male, sembra quasi che si faccia di tutto per impedire una difesa dignitosa, anzi, una difesa qualunque. Non sia mai che l'iperbolico e morbosetto castello di carte dell'accusa dovesse iniziare a scricchiolare. Molto meglio se questa possibilità, quella di difendersi in aula, è ridotta al lumicino. Non mi dilungherò qui su come la videoconferenza si sposi alla perfezione con questa strategia. Di questo si è già discusso molto, anche se forse non abbastanza. Si sa, spesso a pensar male si pensa bene. Dei 20 giorni trascorsi a Vigevano, 15 li ho trascorsi in isolamento sanitario ed 1 in udienza. Altri 2 a fare i bagagli tra andata e ritorno, insomma. Nemmeno questa è stata un'occasione per parlare con l'avvocato, visto che gli isolati non possono ricevere visite. Inutile aggiungere che ora sono di nuovo in quarantena, insomma, bando alle ciance. Lucidamente consapevole della strategia punitiva e preventiva che sta ponendo in essere il DAP nei miei confronti, e temporaneamente offuscata di rabbia e disgusto, ho deciso che, se non ho i mezzi per interpormi concretamente alle loro logiche vendicative, ho perlomeno la possibilità di non lasciarglielo fare con la mia collaborazione. Alla notizia del mio ritorno a Santa Maria, alle ore 18 del 16 giugno 2021, ho immediatamente comunicato l'inizio di uno sciopero della fame a tempo indeterminato. So che queste decisioni non competono alla direzione del carcere, ma io in questo posto di merda non intendo più mangiare un boccone. E peccato, perché le compagne di gabbia fanno delle pizze. Ma mi è passata proprio la fame. Ad oggi nessun medico mi ha visitata né pesata. Alle donne che ho intorno pare un po' una sciocchezza, una capata. D'altronde qui c'è gente che rischia il fine pena mai. E si fa andar bene queste condizioni. Ma anche questo è un altro discorso. So che alcuni di voi non hanno mai smesso di riflettere su isolamento e dispersione. Dispersione. Mi dispiace non essere in grado di fornire nuovi spunti o idee innovative, ma in questo momento, in cui ho deciso molto di pancia di intraprendere questa nuova sfida, non sono riuscita a pensare a nulla di meglio che usare nuovamente il mio corpo, digiunando. Vi ho scritto queste due righe di getto sulla scia della stessa ondata emotiva di ribrezzo assoluto che mi ha invaso rivedendo queste mura di merda. Spero di non essere stata troppo confusionaria. Vi abbraccio tutti con molta forza, a pancia vuota e testa alta. Salud e anarchia. Nat. PS. Un piccolo appunto in merito al volantino di indizione del presidio del 13 giugno a Vigevano. Per quanto ci si possa trovare male in una AS3 e le condizioni possano essere afflittive, nel rispetto di chi ci sta veramente, ci andrei con i piedi di piombo a fare paralleli con il 41 bis. È stato davvero un po' fuori luogo, a mio avviso. Spero che nessuno si offenda per questo mio pensiero. Ed è stato comunque bellissimo sentirvi. Io sono Digos naturalmente, a futura memoria sono Digos da sempre. Io sono Digos personalmente e lascio a verbale, sono Digos per sempre. Porto il borsello dietro la schiena, dondola il puma nell'area urbana, fermata San Giovanni, fermata Re di Roma, tu porti il ferro nel perizoma, secondo piano fotocopiatrice rotta, vado in Marocco, sono di scorta, quando non funziona e quando manca la carta, mi serve il modulo per la trasferta, la targa non ricordo ma chi minchia controlla, sono in Marocco. Siamo di scorta, oggi la Hyundai ce l'hanno sospesa, sto sull'appunto con la collega, deflagrazione in atto a poca distanza, sono cose di lavoro, ci vuole pazienza, l'ordigno è andato esploso a poca distanza, ho sempre i moduli per ogni partenza e sono tra i vetri andati in frantumi, collega di lavoro, dimmi che mi ami, dalle tue labbra tolgo i cristalli, collega di lavoro, perché non parli, tu non mi concerna, chi se ne importa, ti amo da morire, stanotte c'è la scorta e sono tra i vetri andati in frantumi, a Roma c'è chi vuole la morte mi si fumi, secondo piano fotocopiatrice tolta, aveva rotto il cazzo, impediva la svolta, perché la carta non resta zitta e dice dove stavi dal suo punto di vista, sotto scansione la trama più perversa, siamo tutti quanti sotto inchiesta interna, dai giorni del sequestro del Tiburtino, ho in mano i moduli di ogni destino, è solo un po' di sangue sui danni diffusi, quanto sei bella con gli occhi chiusi, dalle tue labbra tolgo i cristalli, collega di lavoro perché non parli, amore, amore, amore, te lo dico un'altra volta, alla divisione c'è sempre chi ti ascolta, amore, amore, amore, te lo dico un'altra volta, per uno che ci parli c'è un altro che vi ascolta, sotto scansione le accuse più infamanti, troppe le omissioni e i silenzi imbarazzanti. dimissioni, decisione sofferta. Io della divisione non posso fare senza, e la mia vita non resta zitta, e la mia morte c'è chi l'affitta a ore, a giorni, a settimane, a mesi, per gli anni aspetto la conclusione delle indagini, da troppo aspetto il risultato delle analisi, perché la morte non sta mai zitta e dice chi è stato dal suo punto di vista. Dum me concerna, a chi se ne importa, ti amo da morire, stanotte c'è la scorta, conservo gli scontrini per ogni evenienza, ho sempre un foglio viaggio per ogni partenza, foglio viaggio strano, foglio viaggio storno, due posti per l'andata, un posto di ritorno, io mica sono scemo, l'ho capito al volo, alla divisione mi hanno fatto il culo, amore, amore, amore, le procedure, dovevi rispettare le procedure, in caso di esplosione postura facciale, non era per baciarti la mia bocca a cuore, è solo un po' di sangue sui danni diffusi, quanto sei bella con gli occhi chiusi, dalle tue labbra tolgo i cristalli, collega di lavoro perché non parli, dovevi dirlo ai nuovi e dirlo ai senatori, al Puma è molto meglio non rompergli i coglioni, l'ordigno è andato esploso al tempo stabilito, sorridevi ancora quando ti ho sparato, amore, amore, amore sincronizzato, sorridevi ancora quando ti ho sparato, dai giorni del sequestro del Tiburtino, ho in mano i moduli di ogni destino, ho accesso ai controscheda in ogni circostanza, ho sempre un prepagato per ogni partenza, fermata a San Giovanni, fermata a Re di Roma, dondola il Puma nell'area urbana, al secondo piano è in corso la riunione, si parla di lavoro, del nuovo piano ferie, hai saputo del Marocco, hai saputo della scorta, si le aveva rotto il cazzo, impediva la svolta, hai saputo. Stanotte c'è la scuola.